non so più cosa fare. Perché? Dice sempre un sacco di bugie. Ah, ma questo non è un problema. Bobby, che c'è? Un elefante vola. Dove? Da qui a Timbuktu. Visto? Bugie a iosa. È un creativo orsù. Ma io? Stai calmo. Vabbè. È un bimbo. Lo so. Ma non ne posso. Guarda che il naso cresce, non lo sopporto più. Stai calmo, vabbè, è un bimbo, lo so, ma non ne posso più. Queste non sono bugie. Ah no, e cosa sono? Sono qualche cosa in più. Ne farei volentieri a meno. Sono le bambino, le bugie denotano fantasia e creatività. Ma sarà... Bobby! E stai zitto, no? Bobby! Vedrai da grande che soddisfazioni ti darà. Bobby, ascolta! Uffa! Bobby, perché la pantera è nera? Ma che ne so! Stai calmo. Vabbè, Bobby! È un bimbo. Lo so! Ma Bobby, non ne posso più. Bobby, io lo so! Sentiamo! Si abbronza tutto il giorno. Vai, eccone un'altra! Vero? Ma insomma ora basta, non lo sgridare più. Ma io? Stai calmo. Vabbè, è un bimbo. Lo so, ma non ne posso più. Queste non sono bugie. Ah no, e cosa sono? Sono qualche cosa in più. Ne farei volentieri a meno. Sono le palla. È stato il mio babbo, signore! Ah, è così, eh? Ai! Stai zitto, spione! Ma, Bobby, me l'hai detto tu di non dire bugie! Eh,